GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Malattie di stagione respiratorie, sistema sanitario in affanno tra i bambini, l'impennata del virus RSV. Pordenone aumentano le richieste di aiuto alla Croce Rossa, le testimonianze degli operatori. Inaugurato in Vaticano il presepe di Sutrio, i ragazzi dello IAL di Aviano hanno cucinato per Papa Francesco. Udine e Teleto nella staffetta dei record, la 24 per un'ora si concluderà alle 15. Palmanova in mostra le immagini delle donne da un campo profughi in Grecia, intervista al fotografo friulano che l'ha ideata. Musica, il pianista Ramin Barami in concerto a Porto Piccolo, Paolo Rossi con il nuovo spettacolo in scena a Zoppola. Sport, Lisa Vittozzi guida la Coppa del Mondo di biathlon, pari dell'Udinese nell'amichevole con gli sloveni del Tabor. Le 8:31 minuti, buona domenica da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Uno sguardo al tempo, come di consueto in apertura, abbiamo cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate poco fa alle 8 a Trieste, 8 gradi e 5 decimi, c'è vento che soffia a 40 km orari da est, levante, raffiche che hanno raggiunto i 50 km. Gorizia 8 gradi e 5 decimi, a Pordenone 9 gradi, a Udine 9 e 5 decimi. A Tolmezzo ci sono 6 gradi, a Tarvisio 0, a Sappada 1 positivo, a Foni di Sopra 2 gradi e mezzo, sul Piancavallo 3, in quota sull'Ussari meno 2, sullo Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, a Grado e Lignano 10. Le previsioni per oggi pomeriggio a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: cielo coperto con piogge diffuse e in genere abbondanti, probabilmente più attenuate sulla costa e forse anche intense invece verso le prealpi. Nevicate da moderate ad abbondanti inizialmente a partire da 1000 metri circa, localmente a quote inferiori nelle valli interne e nel Tarvisiano. Poi la quota neve sarà in innalzamento, sulle prealpi fino a 1600 metri circa, sulle zone interne fino a 1200 metri. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta a Trieste al mattino. Le malattie stagionali e il virus RSV, che colpisce in prevalenza i bambini piccoli, negli ultimi giorni hanno fatto impennare gli accessi ospedalieri. Non è il Covid questa volta a mettere il sistema sotto pressione. Il sistema sanitario, in particolare quello pediatrico, è in affanno in tutta Italia per la diffusione di alcune malattie infettive respiratorie e il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione. È il virus respiratorio sincitiale la principale preoccupazione. In questo momento è in corso un'ondata intensa simile a quella dello scorso anno, già abbastanza pesante. Pur essendo diffuso nell'intera popolazione, l'RSV è più aggressivo nei bambini e rappresenta un rischio anche per gli anziani. I più piccoli a volte hanno bisogno di ricovero, persino in terapia intensiva, soprattutto nei primi 5 anni di vita. Sono una dozzina quelli che tra Trieste e Udine vengono aiutati a respirare con l'ossigeno o rimangono in osservazione. Per fortuna solo di rado è necessario intubarli. L'RSV si riconosce perché i bambini respirano come se avessero appena finito di correre, dice la dottoressa Stefania Norbedo del pronto soccorso del Burlo Garofalo di Trieste. A questo virus si aggiunge l'influenza, che già ora è su livelli di circolazione alti. Nei dati regionali delle ultime 24 ore il Covid è responsabile di circa 950 nuovi contagi. L'incidenza settimanale supera i 500 casi per 100.000 abitanti, il tasso di positività sui tamponi effettuati è oltre il 20%. I temi del lavoro, firmato il nuovo contratto di secondo livello dell'edilizia, un comparto nel quale i bonus del governo hanno fatto lievitare il numero delle imprese, più 10% sul 2019. Il rinnovo interessa oltre 4.000 lavoratori in regione e introduce novità sia per la parte normativa sia per quella economica. Prevede tra l'altro bonus aggiuntivi fino a un massimo del 3% sulla paga base per i lavoratori delle imprese che hanno avuto un andamento positivo. Il lavoro non sempre mette al riparo dagli aumenti dei prezzi, soprattutto quelli energetici. A Pordenone gli operatori della Croce Rossa raccolgono sempre più richieste di aiuto. Sono in aumento le richieste di aiuto alla Croce Rossa di Pordenone, 200 le famiglie assistite con borse spesa e farmaci. Ma ogni settimana allo sportello sociale di Via Cappuccini se ne aggiungono un paio di nuove. Famiglie numerose con difficoltà lavorative strozzate dalle spese che faticano a pagare affitto e bollette. Martina Zanin per la Croce Rossa, Comitato di Pordenone. Le difficoltà sono principalmente legate a perdita di lavoro, assenza di lavoro completamente nel nucleo familiare, presenza di minori, anche quindi di bambini, L'aiuto che noi diamo è un aiuto principalmente alimentare e di orientamento verso i servizi che ci sono e anche forti nel nostro territorio. In questo momento registriamo sì un aumento delle richieste di supporto e stiamo monitorando l'attenzione verso le maggiori spese per l'energia da parte delle famiglie e prevediamo un aumento da qui in poi, perché le famiglie hanno acceso il riscaldamento adesso sostanzialmente. Ma la Croce Rossa di Pordenone assiste anche le persone senza dimora che chiedono cibo e indumenti per difendersi dal freddo. Nel territorio ce ne sono al momento una quindicina che dormono per strada. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Intanto ieri a Zugliano si è svolta la prima conferenza regionale del movimento di volontariato italiano. Sentiamo cosa è emerso. Un movimento di volontariato deve sapersi rinnovare per essere un soggetto politico solidale nei cambiamenti che avvengono dentro le comunità. Un agire diverso per riscoprire la centralità delle relazioni individuando nelle reti territoriali l'azione di trasformazione sociale. E l'appello lanciato con lo slogan «Accendiamo la comunità con la solidarietà» alla prima conferenza regionale del MOVI, il Movimento di Volontariato Italiano, riunito al Centro Balducci a Zugliano. Franco Bagnarol, vicepresidente nazionale MOVI e coordinatore della consulta nazionale del Forum del Terzo Settore. La comunità si può accendere perché la solidarietà diventi centrale nella vita delle persone. In fondo la nostra frammentazione, la nostra disperazione, certe volte dovuta anche a avvenimenti che ci sono accaduti, pandemia, guerra e quant'altro, c'è bisogno di riscoprire la centralità delle relazioni e questo è il nodo del futuro. Da Udine, Lucia Basso, TGR, Friuli Venezia Giulia. Danni ingenti, ma fortunatamente nessun problema per le persone a causa di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in un garage a Moimacco, in via Zappan. Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe partito dall'auto che vi si trovava all'interno, probabilmente a causa di un guasto. I vigili del fuoco di Udine hanno lavorato per diverse ore, prima per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza l'area e smassare il materiale. L'autorimessa è andata completamente distrutta, il fuoco ha danneggiato anche una porzione del tetto dell'abitazione adiacente. Si festeggia oggi Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A Gorizia è in programma una cerimonia che è cominciata poco fa, alle 8.30, nella caserma di via Leoni. Nella sede del Comando Provinciale di Udine, in via Popone, la cerimonia si terrà invece domani, dopo la deposizione di una corona d'alloro commemorativa alla lapide che riporta l'elenco del personale deceduto in servizio. Alle 10.30, sempre domani, in programma una messa celebrata dall'arcivescovo di Udine Mazzoccato. I cancelli della sede del Comando Provinciale rimarranno aperti dalle 14 alle 17 per coloro che vorranno visitare la caserma. Si chiuderà alle 15 a Udine la 24esima edizione della staffetta 24 per un'ora, che nonostante le condizioni meteo avverse ha raccolto le adesioni di oltre 13.000 partecipanti. I fondi per Telethon andranno come sempre alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Dopo le due edizioni solo a distanza del 2020 e del 2021 che hanno consentito al Comitato Udinese di continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon, quest'anno si è ritornati in presenza con numeri da record, oltre 550 squadre per un totale di oltre 13.000 partecipanti. Quella di Udine, numeri alla mano, è da tempo la manifestazione più importante nel panorama della Maratona Telethon e quest'anno alla manifestazione Udinese è stata abbinata una ricerca molto particolare. Marco De Ecker, presidente del Comitato Telethon di Udine. Quest'anno questa iniziativa ha trovato un riferimento anche legato al territorio, che è quello di sviluppare la ricerca di una malattia rara, particolare, che è l'epilessia di Lafora, una malattia che purtroppo affligge una ragazza del nostro territorio e stiamo lavorando, stiamo cercando di fare qualcosa che possa avere un ritorno anche qui vicino a noi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In Vaticano è stato inaugurato ieri pomeriggio il presepe di Sutrio, realizzato in legno di cedro, con 18 figure a grandezza naturale. Una delegazione del Comune Carnico è stata ricevuta da Papa Francesco con il presidente della regione Fedriga e altri esponenti della giunta, mentre 25 ragazzi della scuola alberghiera IAL di Aviano hanno cucinato il pranzo per il pontefice e la cena per i poveri. Una giornata che rimarrà scolpita nella memoria dei partecipanti. Sentiamo la voce di alcuni di loro, prima di tutti quella del sindaco Mattia. Nasce dalla tradizione dei presepi a Sutrio. Noi abbiamo un presepe costruito in 30 anni di lavoro. Questo ci ha dato lo stimolo di offrire al Vaticano questo presepe monumentale. La culla è stata realizzata con radici. Al basamento c'è una radice lasciata proprio intatta. Scolpire il cedro è stato bellissimo. Sono cedri di abbattimenti programmati, quindi nessun albero è stato tagliato. Un gruppo che ho chiamato la solidarietà, ovvero un uomo che è in qualche modo un uomo della montagna perché porta sulle spalle uno zaino che aiuta a risollevarsi un altro uomo che evidentemente è in difficoltà. E oggi sarà inaugurato il presepe fra i presepi, quello di Poffabro in Valcolvera, arrivato alla 25esima edizione. Appuntamento alle 17 nella chiesa di San Nicolò con la celebrazione presieduta da Don Andrea Vena, nuovo parroco di Poffabro. Al termine le melodie natalizie curate dal coro Livenza di Sacile accompagneranno i presenti lungo le viuzze del borgo per la benedizione e l'accensione dei suggestivi presepi esposti. A Palmanova una mostra fotografica che sarà inaugurata oggi e visitabile fino all'8 gennaio nella polveriera Gazzoni da voce a donne alle quali la voce è stata strappata. They Took Away Our Voice è il titolo dell'esposizione che raccoglie oltre 50 scatti delle allieve della scuola di fotografia del campo profughi di Diavata in Grecia, dove a fare da tutore è il friulano Mattia Bidoli. La Photography School è un progetto nato a novembre del 2020 nel campo profughi di Diavata a Salonicco, nel nord della Grecia, all'interno del Safe Space Casa Base, gestito dall'ONG Quick Response Team, QRT. È un safe space dove le donne del campo, di 0 ai 99, possono accedere. Il campo ospita persone provenienti dall'Afghanistan, dalla Siria, dal Kurdistan, dall'Iraq, dal Sud Sudan, sono tutti profughi e rifugiati. E la Photography School è nata lì da un desiderio che avevo da molto tempo. Io sono ormai 18 anni che mi occupo di volontariato internazionale, di missioni umanitarie. Andare lì e raccontare la storia di queste donne qua. È sempre pensato che se trovavo lo spazio giusto, l'appoggio giusto e il tempo, avrei potuto insegnare, dare gli strumenti a queste donne per raccontarsi e raccontare loro stesse. E così è nato il desiderio di poter dare e ridare una voce a chi una voce non ce l'ha più. E che cosa raccontano queste immagini che vediamo nella mostra di Palmanova? Con una parola sola ti direi vita, nel senso che queste donne qua, sia per la loro posizione di donne in un mondo musulmano, e quindi diciamo dove non c'è molto respiro per il loro pensiero, sia per il fatto che sono condannate a una posizione di rifugiate, quindi non vengono ascoltate da chi dovrebbe ascoltarle, raccontano la loro vita, la loro storia, le loro paure, le loro insicurezze, i loro traumi, quello che è successo a loro, ma anche e soprattutto i loro sogni, i loro desideri, la loro voglia di continuare a combattere e a credere. Altri appuntamenti per la pagina della cultura: quinto appuntamento della rassegna Filosofia in città al Teatro San Giorgio di Udine alle 11, in programma l'incontro Il ritorno alla terra della filosofia nel pensiero di Bruno Latour, dedicato al grande sociologo, antropologo, filosofo scomparso di recente, autore del libro La sfida di Gaia. Ne parlerà Beatrice Bonato. La pagina degli spettacoli con il teatro. Paolo Rossi presenta a Zoppola il suo nuovo delirio organizzato dal titolo Scorrettissimo me. L'attore comico monfalconese sarà sul palco dell'auditorium comunale alle 20.45, ma in precedenza incontrerà il pubblico alle 18.30 nella biblioteca comunale. Amanda Sandrelli sarà in scena stasera a Grado all'auditorium Biagio Marin per l'ultima tappa del suo tour regionale nel circuito ERT. Proporrà Lisistrata, commedia di Aristofane, alle 20.45. Al Palamostra di Udine approda il nuovo spettacolo del Teatro Stabil Furlani, il terzo atto pasoliniano in marilenga intitolato Rosada. L'inizio alle 20.45, ma in precedenza, alle 17.30, ci sarà la presentazione con una tavola rotonda, ingresso libero. E ora la musica, un grande interprete di Bach e protagonista a Porto Piccolo del concerto Falesia in musica. Ramin Bahrami, di nuovo ospite della Società dei Concerti di Trieste dopo l'appuntamento dello scorso aprile con Massimo Mercelli al Verdi. Questa volta è un recital per piano solo che si aprirà con l'amato Bach, la partita numero uno di cui stiamo ascoltando la giga, e lo ritroverà nel finale con il capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo. Entrambi cavalli di battaglia di Bahrami. In mezzo le fantasie in re minore di Mozart, tre capricci di Chopin e sei danze rumene di Béla Bartók. Non c'è solo Bach, dunque, anche se quello, come recita il titolo di uno dei libri scritti da Bahrami, gli ha salvato la vita. E continuiamo con gli altri spettacoli di oggi. Mattinate musicali internazionali al Museo Revoltella di Trieste. Alle 11 capolavori cameristici di Mahler e Strauss con Eileen Pritkin violino, David Briatore viola, Frieder Bertol violoncello e Andrea Rucli pianoforte. I concerti della corte sono l'omaggio natalizio di Piano City a Pordenone. Alle 11 si comincia con il primo di quattro appuntamenti in Piazza della Motta. Si conclude a San Vito al Tagliamento il trittico di concerti presentati nel circuito ERT dal coro del Friuli Venezia Giulia in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Nell'auditorium del Centro Civico alle 20.45 il concerto per voce e cinque strumenti dal titolo Io sono una forza del passato. E ora lo sport. Biathlon ha cominciato alla grande la sua stagione in Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, dopo il terzo posto della gara di apertura ieri in Finlandia, un secondo posto nella sprint che ha portato l'atleta sappadina in vetta alla classifica generale di Coppa. Oggi gareggerà dunque con il pettorale della leader nella 10 km a inseguimento che chiuderà la tappa di Conte-Olahti. Per il calcio 1-1 dell'Udinese contro il Tabor Sesana della Serie A slovena nel primo test di avvicinamento alla ripresa del massimo campionato. Per i friulani ha segnato Iaialo, che ha replicato al quarto d'ora alla rete iniziale dei padroni di casa. Una partita vivace nella quale Sottile ha schierato dal primo minuto il giovane Pafundi e nella ripresa una formazione con molti giocatori della formazione Primavera. Nel campionato di C oggi la capolista Pordenone gioca sul campo della Pro Vercelli, mentre all'altro capo della graduatoria, la Triestina, ultima, ospita l'ambiziosa Feralpi Salò, seconda, una lunghezza dei neroverdi. Le partite sono alle 14.30. Per il basket in Serie A la Pallacanestro Trieste gioca alle 20.30 a Reggio Emilia. Entrambe le squadre sono nel gruppetto che chiude la classifica a quota 4 punti. In A2 l'Apo Old Wild West affronta Chieti al Carnera. Si gioca alle 18 come a Rimini, dove sarà di scena la Gesteco, e mercoledì a Cividale in programma il derby. In A2 femminile la Dels Rudine ha vinto a Mantova 49-44 nel tabellino bianconero, 15 punti per Turmel, 9 per Gregori, per le friulane ottavo successo consecutivo. Futurosa Trieste invece sconfitto in casa dal Carugate 69-75. Pallavolo in A2 maschile, successo del Tinet Prata sul Brescia 3-1. I pordenonesi si allontanano così dal terzultimo posto in classifica. Pallanuoto in A1 maschile, trasferta vincente per Trieste nella piscina del Posillipo, 13-9 per gli alabardati, ora quinti in graduatoria insieme a Palermo. Trieste a bersaglio anche nel massimo campionato femminile, il successo per 8-4 a Firenze vale il quarto posto. Nella pallamano Trieste gioca oggi alle 17 il confronto sul campo del Cassano Magnago. Il Messaggero Veneto punta sulla sanità con il piano per ridurre le liste di attesa nelle aziende del Friuli centrale e occidentale. La fotonotizia è dedicata al presepe di Sutrio in Piazza San Pietro ed è richiamato in prima pagina anche il servizio sui dati relativi al personale delle amministrazioni comunali, sempre più anziano. Per la cultura, spazio all'inaugurazione a Palmanova della mostra fotografica con gli scatti delle donne del campo profughi di Diavata, mentre la cronaca di Udine si apre con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid in chiesa. L'edizione di Pordenone dà poi conto delle indagini sul furto in abitazione al quale venerdì pomeriggio è seguito un inseguimento con incidente lungo le strade del centro, mentre la notizia del presepe di Sutrio a San Pietro ha un risvolto locale, con l'esperienza degli allievi dello IAL di Aviano che hanno cucinato per il Papa. Il piccolo apre con i temi della sanità. Gli ospedali Asugi ampliano l'attività in sala operatoria, più interventi chirurgici per ridurre le liste d'attesa. In prima pagina ampio spazio anche alla vicenda dello yacht dell'oligarca russo Medvedchuk, una barca da 200 milioni di euro sequestrata a Fiume in Croazia, andrà all'asta a beneficio delle casse ucraine. Il primo caso del genere, segnala il quotidiano. Tra i temi locali, un approfondimento sui dipendenti comunali. A Trieste sono i più vecchi d'Italia, under 35 solo in 3 su 100. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone si parla sempre dell'appuntamento del 2025. Matera, che è stata capitale europea della cultura nel 2019, indica la strada a Gorizia. Il Gazzettino richiama in prima pagina quella che definisce la folle notte dei ladri a Pordenone, che inseguiti si schiantano, fuggono e riprendono a rubare. Nelle pagine della cronaca della destra Tagliamento anche l'allarme per i disoccupati in crescita e i rincari delle bollette, che si riflettono sia nei listini del bar che nelle prestazioni sanitarie private. Infine il sindaco Ciriani, che per la prima volta interviene sul caso del nuovo palazzo in via Molinari. Nell'edizione del Friuli l'altra faccia dei dati della CGA, con Udine che traina la regione dal punto di vista dell'occupazione. Spazio poi al presepe di Sutrio, al centro del mondo, al bilancio dell'attività dell'elisoccorso e alla sanità, con lo scontro sull'accordo da 7 milioni per le risorse aggiuntive regionali. Questa edizione del GR è stata realizzata da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 8.50, vi segnaliamo alle 9.15 nel cinquantenario della scomparsa dell'artista triestina Miela Reina, la prima puntata dell'originale radiofonico dedicato appunto a Miela, col sorriso d'innocenza di Gianni Gori, che andrà in onda nell'ambito dei programmi radiofonici regionali. Ma rimanete in ascolto, ora c'è Vita nei campi, noi ci risentiamo più tardi alle 12.15. Grazie e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.